In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola: Il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini che presero le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte e 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé l'olio. Le sagge invece, insieme alle loro lampade, presero anche l'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e si addormentarono. A mezzanotte si alzò un grido: Ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. Le stolte dissero alle sagge: Dateci un po' del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Le sagge risposero: No, perché non venga a mancare a noi e a voi. Andate piuttosto dai venditori e compratevene. Ora, mentre quelle andavano a comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alle nozze. La porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e incominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: In verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Anche oggi il tema è quello della vigilanza ed è quello del fatto che all'uomo è sconosciuto sapere quando il Signore verrà nuovamente e quando quindi incontreremo Gesù nel momento della morte. E questo però non ci deve angosciare, anzi, al contrario, questo è veramente un privilegio. Pensate che brutto sarebbe se noi conoscessimo il giorno e l'ora. Saremmo sempre angosciati. Pensate se queste persone che sono morte durante il terremoto avessero saputo in precedenza questo, come avrebbero vissuto? Ogni momento sarebbe stato un momento angosciante, invece il fatto di non sapere il giorno e l'ora non ci deve destare angoscia. Perché? Perché è meglio così, perché così possiamo vivere immersi nel tempo, possiamo vivere in pienezza, possiamo vivere dando significato alla nostra vita. E a questo riguardo mi viene in mente l'esempio di Domenico Savio, San Domenico Savio, il quale stava giocando e a un certo punto gli chiesero: Senti, ma se questo fosse l'ultimo momento della tua vita, che cosa faresti? Forse noi diremmo: io mi andrei a confessare, oppure io cercherei di riconciliarmi con qualcuno che ho offeso, oppure cercherei di fare un atto di carità. No, lui ha risposto: io continuerei a giocare. Ecco, quando noi in ogni momento cerchiamo di fare quella che è la volontà di Dio, noi ci stiamo preparando, siamo vigilanti, ci stiamo preparando per l'incontro con lo sposo, per l'incontro con Dio, per la vita eterna. Quindi, su che cosa ci vuole far riflettere oggi la parola di Dio? Sul fatto che ogni momento è un momento di incontro già con lo sposo. Ogni momento è importante, è come se fosse il momento finale. Anzi, dovremmo dire: se questo fosse l'ultimo momento, che cosa io avrei voluto fare? Che cosa vorrei presentare al Signore? Se io mi comporto in maniera tale che, così come voglio essere trovato dal Signore in ogni momento, ecco, quello vuol dire essere pronti per, il regno dei cieli, essere vigilanti. Quindi vigilare è essere svegli, è operare, è attendere nello stesso tempo il Signore che viene, però un'attesa che è un'attesa gioiosa, perché è un'attesa che vuole e portare tanti frutti allo sposo. E ricordiamoci che è sempre facile magari incominciare a fare il bene, quello che è più difficile è perseverare nella scelta del bene. Allora oggi vorrei invitare ciascuno di noi a riflettere su questo: che cosa io avevo offerto al Signore che piano piano mi sto rimangiando, perché come vi dicevo è facile magari essere pronti a dire di fare qualcosa che, per il nostro progresso spirituale, impegnarci a fare qualcosa, ma poi ci troviamo dopo pochi giorni a rimangiare quella promessa, quell'offerta che avevamo fatto al Signore. Allora la riflessione di oggi vuole vertere proprio su questo: che cosa sto rimangiandomi, cioè su che cosa sto tornando indietro rispetto a quello che avevo promesso di offrire al Signore. Buona giornata.